Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Vediamo un po' di notizie legate alla settimana del Breakfast Club. I magazine sono di ispirazione, pensate, a volte anche il Breakfast Club potrebbe essere di ispirazione per i magazine, o almeno così ci piace pensare. Abbiamo parlato di Marcus Stockhausen, figlio d'arte di Karl Heinz, grande ricercatore, di cui Alias nell'edizione domenicale dà una prima pagina in occasione del suo saggio. Stockhausen interroga il suono, testi da Die Reihe, il cui fondatore Herbert Elmert allestì nel 51 il primo studio di musica elettronica. Oreste Bossini, da questa apertura, dalla formulazione teorica della propria filosofia compositiva all'assegnazione del primato all'ascolto creativo. Da Shake questo lavoro che porta testi sulla musica elettronica e strumentale 1952-1962. Il percorso, giustamente, in un articolo molto interessante, inizia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'imperativo non solo dell'economia e della società in genere, ma anche della cultura europea, era la ricostruzione. Il mondo della musica si trovò ad affrontare una sfida senza precedenti. Dopo il completo fallimento delle avanguardie storiche, o perché riassorbite in qualche modo dai linguaggi tradizionali, non dimentichiamo che si usciva da una guerra tremenda, per cui una ricostruzione che certo non dava quello spazio, come abbiamo visto in precedenza durante la prima e la seconda, con le avanguardie nelle arti figurative, ad esempio. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, un assorbimento di tutto ciò che poteva essere un'avanguardia e un percorso oltre il contemporaneo per portare suono e attenzione verso le musiche più tradizionali. Poi l'arrivo di una cultura statunitense, se così si può chiamare, insomma, ha dato certo importanza a uno stravolgere completamente la ricerca musicale e la proposta musicale. Altrettanto chiara, tuttavia, era l'esigenza di includere nella nuova teoria musicale elementi espressivi assai più disparati che in passato, provenienti da culture europee non. Infatti, adesso non posso proporvi questo brano perché Karl Heinz Stockhausen con Telemusic, che è questo progetto che ha tra l'altro un'attinenza con la tradizione orientale nipponica nell'elettronica e nel noise, dà uno sguardo ovunque. La prospettiva sonora anch'essa andava allargata a misura delle nuove frontiere, aperte da sviluppi tecnici allora appena immaginabili. La poesia nel suo futuro, Stockhausen interroga il suono. Quando si fermerà? Beh, si fermerà quando capisce che tutta questa ricerca l'ha portato in un cul-de-sac per quanto riguarda le sonorità. Del resto, lavorare sull'avanguardia è qualcosa di non solo difficile, ma che dà un impegno molto importante. A tal modo, in conclusione, come scrive sul saggio, che è una sorta di retrospettiva critica sul primo decennio della propria produzione, sulla fase eroica dell'assalto al cielo che Stockhausen chiuse non appena comprese come la purezza teorica della nuova musica, dagli scintilli diamantini inesorabilmente tagliati da Weber nella metafora di Stravinsky, rischiavano appunto di portare tutto ciò in un cortocircuito, in un cul-de-sac. momenti siamo ai tempi di grandi musicisti nella musica elettronica, ovviamente e fortunatamente analogica, con Edgar Varese, con lo stesso Karlheinz Stockhausen che abbiamo ascoltato nell'incipit e in alcuni riverberi che ho voluto mettere in confronto con il glitch post rock di Manual che stiamo ancora ascoltando. Fantasmagorici remix, se vogliamo, ecco, che porto in diretta, per cui abbiate pazienza. Ne ho presa l'occasione dall'articolo e dal saggio presentato in prima pagina dalla domenica del Manifesto con Alias, l'edizione che dedica la prima pagina al lavoro di Karlheinz Stockhausen, Interroga il suono, testi sulla musica elettronica e strumentale 1952-1962. Restiamo visionari, lo facciamo in letteratura, poi lo faremo nell'arte, lo facciamo in letteratura perché ampissimo spazio da tutto libri, già dalla copertina con il Salone del Libro che rende omaggio a Franz Kafka. Ho cominciato a leggere con Franz Kafka a proposito di mie follie, trovai una vecchissima edizione in uno sgabuzzino del Processo, avevo poco più di 10 anni, ricordo, era appena scomparso mio povero papà, e a quel punto iniziai ad addentrarmi in questa lettura impossibile. Mi resi conto che era impossibile, ma allo stesso tempo non riuscivo a smettere, non riuscivo a staccare gli occhi da quelle righe. Volevo capire perché quest'imputato o non imputato continuava a scappare, volevo capire le sue colpe, volevo capire per quale motivo era costantemente da una burocrazia asfissiante chiamato a giudizio. Kafka è maestro di tutti, sì, lo confermo, centenario per quanto riguarda la ricorrenza dal grande scrittore boemo, scomparso 100 anni fa, Salone di Torino, l'eterno incompleto che nessuno ha compreso, citato, imitato, raffigurato, persino tatuato, così è l'antipop diventato un'icona, un grandissimo in copertina e non solo per quanto riguarda tutto libri. Collezionava foto osè, frequentava bordelli, ma non accettava il disordine dei sensi. In questi 3 volumi portati dal saggiatore Rainer Stack, nuove prospettive e fonti inedite, Kafka, gli anni della consapevolezza, e come tutti i lavori del saggiatore mettete la mano nel portafoglio, però ne vale assolutamente per un approfondimento importante. Anita Ragia, Franz Kafka, invece il lavoro è sulla Metamorfosi, altro capolavoro che ho letto subito dopo, è una trasmutazione e Gregor Samsa non è uno scarafaggio. La traduttrice del capolavoro di Kafka racconta la sua esperienza, tutto è racchiuso nella prima fase. Mi sono soffermata a lungo su quel prefisso, un, che compare con insistenza nelle prime 3 righe. Kafka non dà modo di capire quanto duri la storia, è vero, sembrano giorni, ma poi il tempo si dilata. Yes and Ascending. Questo è uno dei dischi più particolari, veramente, che presi, mi ricordo, uscito nel 1996, lo tengo come un oracolo. Glenn Moore è bassista, contrabbassista, compositore, qua insieme a Carla Bley, che all'organo, Steve Swallow al basso elettrico, Rabi Abu Khalil all'oud, musicista di cui abbiamo tanto parlato e abbiamo anche ascoltato per quanto riguarda altre sonorità, in questo caso medio orientali. Il disco Nude Bass Ascending ha anche assolutamente di kafkiano. Un musicista molto colto è Glenn Moore, oltre che talentuoso. Questo secondo me è uno dei dischi suoi più strutturati in assoluto. Grande Franz Kafka ed Ansel Kiefer, che è in mostra a Palazzo Strozzi a Firenze. Ho voluto portare questi suoni in dialogo tra di loro, Palazzo Strozzi, e siamo a pagina 14 della Domenica del Sole 24 Ore. Allora, la mostra di Ansel Kiefer è papabilissima per la rubrica in mostra, farò il possibile, anche se molto, per così dire, ricercata anche dai mezzi di diffusione per quanto riguarda l'arte. Spero di poter dedicare una monografia al grande Anselm Kiefer per ripartire dalle macerie della storia. Lui è stato anche un grande provocatore, lui è stato criticato. A Palazzo Strozzi l'artista crea un percorso iniziatico che comincia con l'Arcangelo Michele su foglia d'oro, di una bellezza immensa, per finire nella Sala della Filosofia. A Firenze, a Palazzo Strozzi, sarà fino al 21 luglio, per cui insomma direi che non siamo poi così in ritardo, anzi tutt'altro, siamo assolutamente a tema per la rubrica in mostra del giovedì. Un po' di musica, The Game of Despise, Sin, da Vienna Scientist, e poi torniamo in diretta per parlare un po' di Anselm Kiefer, grandissimo artista. He was a beautiful beast. She was so attracted. Not supposed to lie, yet she was kind of infected. Giving each other kicks, sometimes in the ass. But when they made love, sheets were a mess. One sunny day. And spies, no lust in their eyes, a fading youth, a painful truth. Times are changing in people as well. Who wins in the end? No one can tell. Avere approfondimento con una delle voci per l'esposizione a Firenze a Palazzo Strozzi, sede espositiva tra l'altro molto prestigiosa. Per quanto riguarda una piccola nota biografica di Anselm Kiefer, nasce l'8 marzo del 1945, ritenuto pittore e scultore, ovviamente tedesco. Sono anni, gli anni 70, anche la fine degli anni 60, dove si scrive, lascia anzi per così dire il corso di giurisprudenza per iscriversi alle belle arti e a pittura. Sono questi gli anni in cui si inizia una serie di azioni artistiche che così lui definisce occupazioni. È provocatorio, si fa fotografare mentre effettua il saluto nazista davanti a una serie di luoghi della Germania Ovest e della Germania Est che per lui hanno un significato dal punto di vista mitologico e storico. Da una parte della critica è tacciato quale neonazista e per molti anni tale etichetta lo accompagna, creandogli non pochi problemi dal punto di vista espositivo e anche economico, mentre altri critici, sempre tedeschi, ne esaltano il coraggio, cioè come egli metta il dito nella piaga in quello che è stato l'incubo della Germania nazista. E per quanto riguarda il suo lavoro, con questa presentazioni e queste poche note leggeremo alcune righe anche di un critico di origine italiana, fra l'altro, che ne ha dato un'ulteriore interpretazione. Per la mostra a Firenze, già dal titolo Angeli caduti, Kiefer è solito sottoporre i suoi lavori a processi di metamorfosi, e qui mi rifaccio a Kafka, come ho detto un fattore K, generati dagli elementi naturali, da reazioni chimiche, in specie di laboratori creati in container, anche da radiazioni, se vogliamo, che ha composto come una sorta di camera delle meraviglie nel cuore della mostra, ricoprendone anche il soffitto, riflesso nello specchio sottostante. È qualcosa di paragonabile al miracolo visivo creato da Tintoretto nella scuola grande di San Rocco a Venezia. Ecco, io non solo consiglio, ma obbligo una visione ai lavori del Tintoretto nella scuola grande di San Rocco, e anche per questo che ne ho avuto un motivo in più per presentare e anticipare questi lavori di Kiefer. Ma prima di arrivare qui si incontrano altri capolavori come il Lucifero, dove là l'ammaccata di un aereo militare sulla tela corrosa evoca l'episodio biblico ma anche la guerra, mentre di seguito la luce d'oro del Sol Invictus esplode nei dipinti splendenti del cielo dedicato all'imperatore Elio Gabalo, altra figura che meriterebbe più che un approfondimento, insomma. Beh, una mostra da non perdere. Farò di tutto per averla nella rubrica A Regola d'Arte. Tra pochissimo, dopo il brano Blank degli Urban Spaces, brevemente in diretta, poi andremo in pubblicità e poi sarà non un last minute, ma un'attinenza coi magazine letteraria per il lavoro che abbiamo presentato, Ran Rush, Il Custode, La Nuova Frontiera, Blanket. The cracks in the ceiling, symbolizing how he's feeling. On his face, the sunlight sits. It is a drying of an eye while he tries to get to grips with the fact that the real thing's gone. He switches on the radio and every other one's a sad song. Fat lady sings about she slipped through his fingers. Now the smell of smoke from the ex flame is over lingers. Tries to rekindle, but the wick's gone down. Rummages through the mind like a hot street tramp. Desperately seeking light, Susan, for a reason. Minds cast back before the acts of the treason. To the time spent, and what those times meant. Realize that she was heaven sent when you was hell-bent on destruction. Destruction. Just like an arsonist, the truth hurts. And the truth is that you're asked for this. Suspicious minds and mistrust. Now is it just reflections of one's own lust? Or is it insecurity that makes a man possessive? This little piece of purity that no one could mess with this trust. Why are you doing this? Destructive love. We sow like farmers, reap the melodrama. The good times, the bad times, depending on the karma. That's due you, what goes around comes back around. That's simple, invincible's the principle. Forever and a day, so as sure as a day glow. You're bound to get yours, bro, there's no doubt about it. No ifs, buts, no maybes. Babies having babies in the belly. L'imperatore di Yogabalo, completamente così fuori di sé, se vogliamo, ma genio e sregolatezza. Era veramente molto avanti per certi aspetti, per altri completamente sbilanciato, inaffidabile per quanto riguarda l'aspetto politico e bellico. Per l'impero romano è stato un imperatore, è stato fatto fuori giovanissimo. Gabalo non voleva esserne uomo né donna e cambiò appunto il nome da Elio Gabalo, figlio del sole, l'Etimo, e tentò più volte di virarsi fino a rischiare la morte. Chiudo con l'articolo che trovo a pagina 5 della Domenica del Sole 24 Ore, perché potrebbe essere un altro voltiamo pagina. Questo libro già letto, lo vorrei portare nella selezione letteraria della rubrica del mercoledì al Breakfast Club. Ritorna Rachilde, uomo di lettere, riscoperte, due opere, Messie Venus e Perché non sono femminista, ripropongono l'autrice ribelle che portava i pantaloni, che stupì Oscar Wilde con le trame volutamente morbose dei suoi testi, scandalosi e controcorrente. Ecco, per quanto riguarda questa autrice che esordì poco più che ventenne, il romanzo fu subito sequestrato e lei fu condannata a 2 anni di carcere. Ne parleremo nelle prossime puntate al Voltiamo Pagina. Tra poco pubblicità, poi si ritorna in diretta, presentazione letteraria con Margherita Carlotti. Vediamo se è abbastanza mattiniera per quanto riguarda questa clip che vorrei dare in un Last Minute Magazine, in quanto l'arrivo di Ron Rush e il suo lavoro al Voltiamo Pagina, il custode protagonista nell'ultima puntata. Ricordo la casa editrice da tenere sott'occhio, che è La Nuova Frontiera. Ne parleremo tra poco, dopo gli spot. Buon ascolto. We'll be right back. nuovamente in diretta, 8:36 minuti, quindi puntuali in questi magazine che danno una sorta di last minute, perché sarà domani letterario, legati alla rassegna stampa culturale, sempre con l'edizione domenicale di Alias. A pagina 3 troviamo già dal titolo, dagli Appalachi tra solennità e vernacolo, costruito in 5 parti secondo il modello della tragedia elisabettiana, il custode segue le vicende dell'amore contrastato fra due giovani nell'America profonda degli anni 50, edizioni, come vi ho già detto, La Nuova Frontiera. Sarà domani in presentazione alla libreria Biblion a Granarolo dell'Emilia, Bologna. A tale proposito con noi Margherita Carlotti. Buongiorno Margherita. Ciao, buongiorno, ciao Willy, buongiorno a tutti. Un bel colpo Ron Rush con questo lavoro, che ho trovato molto interessante per il 2024. E poi, dopo questo tuo incipit che darai, vorrei approfondire determinati aspetti. Ovviamente tu hai letto Il Custode, immagino di sì. Eh beh, certo, assolutamente. Ed è un lavoro che ti ha colpito molto, come ha colpito me? Sì, mi è piaciuto molto. Appunto, intanto per la sua struttura, perché è chiaramente d'impronta molto classica, no? È abbastanza chiaro anche l'epopea di questi protagonisti, no? Ricorda molto Shakespeare, appunto, gli equivoci che ci sono. Poi io amo moltissimo la letteratura americana di periferia, chiamiamola così, no? Ecco, questa è una piccola divergenza che abbiamo io e te. Vabbè, ok, ma ci sta, è normale. Però. Sei d'accordo con me che questa è una narrativa statunitense del sud particolare, atipica? Sì, sì, assolutamente, ma anche un po' per questa delicatezza, no? Con cui i personaggi vengono trattati. Molto spesso la narrativa del sud è più forte. Beh sì, McCarthy, infatti. Sì, è più dura, più ruvida, Rush è molto più, proprio sì, tenue, delicato, pastello, no? Se lo dovessi dipingere anche in qualche modo. Ed è proprio per quello che uno dei motivi, essendo un po' io di Picaglia tenera, che ho colpito, così per dirla in maniera immediata. Sì, molto shakespeariano. Poi l'inizio, la parte iniziale in questa guerra di Corea, questo duello corpo a corpo, per nulla truculento, ma dolorosissimo. E lì la bravura, secondo me, anche dello scrittore. Riuscire a dare la sensazione senza portare delle terminologie che ti sconvolgono, per così dire, ma allo stesso tempo ti dà una descrizione del momento, che è chiaramente molto doloroso, su questo lago ghiacciato dove i due si ritrovano con questo nordcoreano che pare un fantasma senza volto e questo giovane ragazzo aggredito che non sa da che parte pigliare, ne avrà la meglio, però insomma le conseguenze saranno veramente tremende e non solo fisiche. Così abbiamo dato l'avvio alla lettura Custode. E poi c'è l'incipit quello. Sì, sì, è molto bello. E poi c'è questo mio amore per i depositi della memoria, per i cimiteri. Sì. C'è anche quello. Sì. È vero, e questo è proprio un cimitero, appunto, di un paese americano, un po' alla Spoon River, no? Sì. Dove ci sono queste lapidi proprio solo con il cognome, e dove c'è questo cancellino che si apre per arrivarci, si sale su questa collinetta e poi. Per me il personaggio più bello è assolutamente, appunto, questo custode, no? Questo ragazzo che fa il custode a questo piccolo cimitero del villaggio. Tra l'altro colpito fisicamente da una malattia che da tempo ha rovinato fisicamente questo ragazzone, descritto come molto forte ma allo stesso tempo molto debole in seguito sia al lavoro che ai percorsi di vita, che non è stata poi così generosa con lui. Le vicende di questi due ragazzi, ai quali vengono raccontate un sacco di frottole, ma non svegliamo più di tanto, anzi vi invitiamo alla lettura di questo che andrà in cinquina, Premio Pellegrino, ve lo dico già in anticipo. Io domani sarò alla presentazione in Biblion, e come sarà questo incontro? Svelaci qualcosa per quanto riguarda la tua conversazione con Ron Rush. Allora parleremo per forza, lo so che tu appunto non ami tanto la provincia americana, ma ti toccherà ascoltare racconto di questi luoghi e di questi paesaggi che nel libro sono molto molto presenti, e anche nei suoi libri precedenti, quindi insomma sono proprio una sua cifra. E poi proveremo a parlare anche appunto di questa sua voce così singolare nel panorama della regione e di come quella regione lì, che è, lo anticipo, una zona montuosa del North Carolina, molto vicino al Tennessee, abbastanza vicino al West Virginia e alla Virginia, quindi siamo nel appunto nel sud montuoso, vicino agli Appalachi, stia vivendo una sorta di fortuna in questo momento, anche in traduzione italiana, pensa quanti libri ambientati nel Kentucky, Damon Copper, il premio Pulitzer ambientato in West Virginia, sì. No? Cioè, c'è un, se prima si parlava molto di sud in quanto Louisiana, Mississippi, no? Le paludi, il caldo, certo, afoso, adesso c'è questa regione enorme ovviamente di cui insomma iniziamo a leggere tante storie, quindi a me interessa sempre parlare con gli autori, no, anche del contesto in cui scrivono, e sono curiosa di capire anche lui, dato che scrive da tantissimi anni, un po' come vede questa specie di proliferare di storie. Sì. Tu hai detto dovrai un po' accettare, no, guarda che tu sai bene della mia sisifia ignoranza, per cui sono ben contento di imparare, anzi c'è la possibilità di avere qualche consiglio per libri precedenti portati da Ron Rush e la narrativa statunitense, tra l'altro lui già ritenuto un classico per la letteratura statunitense del sud, quindi un colpaccio alla Biblion. Sì, siamo molto contenti, molto sì. Bene, chi ci sarà con te oltre l'autore? Io. Vengo anch'io, che sono sempre così, hai capito? No, nel senso che le presentazioni in libreria le faccio praticamente sempre io, le traduzioni io, dall'inglese, dal francese, e quindi alla fine quando succede che è una presentazione anche con un autore americano, siamo io e lui, e spero tante persone che ci vengano a sentire. E noi vi invitiamo alla Biblion, ore, Margherita? Alle 21. Ore 21, libreria Biblion, via San Donato, Granarolo dell'Emilia, Bologna, uno dei pochi indirizzi che non ho mai sbagliato, la presentazione con Ron Rush, casa editrice La Nuova Frontiera, un'altra sorpresa, almeno per me, gran bella casa editrice, Margherita. Molto, bravissimi. Sì, con L'Orso, ho letto L'Orso ultimamente, questo lavoro scandaloso, chiamiamolo così, almeno per l'epoca, ma veramente molto molto bello. Comunque ne parleremo poi nel Voltiamo Pagina. Intanto ricordiamo l'appuntamento di domani alle ore 21 in libreria Biblion, Granarolo dell'Emilia in via San Donato, quindi la possibilità di fermarsi anche dopo, perché come ben sapete Granarolo è un po' trasformata, non è più un paese di vicinanza con Bologna, ma una sua identità. Grazie anche a Libreria Biblion, alle sue proposte, ai suoi motivi di incontro. Grazie Margherita cara, noi ci vediamo domani sera allora. Sì, grazie a te. E una buona giornata, a presto, ciao. Ciao. Rapunzel. inizio settimanina così, questa di mid term del mese di maggio. Allora, si comincia lunedì questa sera, Paradiso Jazz, ultima serata, Bill Evans. L'apertura per la cena, ore 19:30, a seguire il concerto. Paradiso Jazz in via Bellaria, San Lazzaro. Domani, libreria Biblion, Ron Rush, in presenza con l'autore, la presentazione del lavoro In Cinquina Pellegrino, Il Custode, la nuova frontiera. Anche il weekend, ma ne parleremo perché con Angelica ci sarà un progetto particolare da non perdere. E su queste note, il mio buona giornata, buon inizio settimana, buon ascolto, a breve di Pen Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, dopodiché rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, poi il weekend appena trascorso con lo sport, per quanto riguarda Caffè e Paglia, domani puntuali alle ore 7, la prima colazione in diretta, il Breakfast Club. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, a domani, ciao a tutte, ciao a tutti.